Roma Trastevere, 30 novembre 1966. Caro Eleuterio, la casa che conobbe a suo tempo tutte le mie bambole, oggi conosce tutte le mie pene segrete. Sono così triste, Eleuterio, che Raul Grassiglia al confronto diventa un ridanciano. Ho ritrovato un mio diario giovanile. Il diario non è che una raccolta di previsioni del passato. E tu non sei che una raccolta di stupidità. Sei riuscita a organizzare un'ennesima lite per un piccolo quadro rotto. Sempre tua. Roma Parioli, 1 dicembre 1966. Cara sempre mia, la casa che conobbe le tue bambole e che ora conosce le tue pene segrete, se io fossi lì, altri segreti verrebbe a conoscere. I segreti istinti omicidi nei tuoi confronti e anche quelli più violenti ancora dedicati a tua madre. Cosa fa? Esce sempre a cavallo d'una scopa? Sì, sarà anche stupido litigare per un piccolo quadro che si rompe. Ma tu sai quanto io sia attaccato alle cose che mi appartengono. Tenevo molto al mio quadro, ma tengo molto di più alla mia testa. Perlomeno una in famiglia ce ne vuole. Ciao. Po' scritto. Quando soffri per l'infelicità che ti procura tua moglie, pensa a tua suocera e all'infelicità che essa procura al proprio marito. Ti sentirai un uomo felice. Lin ciao. Eleuterio. Roma Trastevere, 2 dicembre 1966. Caro Eleuterio, randagio, lo so, randagio si può riferire anche al cane, ma tu sai perfettamente la stima che ho per i cani, quindi gatto. Dicembre nell'aria. E già qualche bottega di Trastevere si infiocchetta di foglie di lauro. Il lauro, un segno di gloria che all'avvicinarsi delle feste premia il cantico dei cantici della gastronomia natalizia. Ti chiedo scusa per il piccolo quadro che ti si è rotto in testa, ma la colpa è tua che non sai camminare facendo la verticale. Sempre tua. Roma Parioli, 3 dicembre 1966. Mai troppo lodata, sempre mia. Questa casa si è riempita di silenzio. Mi annoio. Sono uno sportivo e la tua assenza mi priva dei quotidiani match tra i tuoi prodotti di bellezza e il tempo. Dei tuoi volenterosi attacchi al buonsenso, delle gare costanti per ridicolizzare il ridicolo, mi manchi. Torna. Anche perché credo che qualcuno ci abbia derubati. Nella credenza di cucina non ci sono più piatti né ci sono più bicchieri. Sarà bene denunciare il furto. Ciao. Ho scritto. La portinaia ha ritrovato i bicchieri e i piatti. Erano tutti nel lavello in cucina sotto le posate. Eleuterio. Roma Parioli, 3 dicembre 1966. Caro Eleuterio, micione, rieccomi qui. Sono rientrata nel nostro palazzo, nel quale è la nostra casa, nella quale è la nostra stanza da letto, nella quale è la mia vestaglia. Insomma, sono dentro la mia vestaglia quella rosa, il che vuol dire che sono anche dentro la mia casa. E tra poco tornerai anche tu. Ti sto aspettando, Eleuterio. I due pesci rossi fanno un lento girotondo nella loro vaschetta, uno dietro l'altro, e penso che la vaschetta dei nostri due pesci non è che un teleschermo bagnato con uno spettacolo monotono. E penso anche al perché della nostra ultima lite. Era uno dei nostri intimi dopo cena. Tu stavi riordinando delle carte e io ero lì. serio? Ho letto un articolo. Ah, brava. Hai fatto progressi. Fino a ieri leggevi al massimo le vocali. Sei nervoso, Eleuterio? Sì, non riesco a trovare certi appunti che avevo messo qui. Eleuterio, io lo so perché sei nervoso. Lo so che lo sai. Ho finito adesso di dirtelo perché sono nervoso. No, non è perché me lo hai detto tu che lo so. Lo so perché l'ho letto nell'articolo. Sei nervoso perché fumi, Eleuterio. Il fumo fa male. No, senti, non cominciare con la faccenda del fumo. Una moglie ha il dovere di mettere in guardia il marito. E allora perché non mi hai messo in guardia contro tua madre quando mi hai sposato? Non incominciare con mia madre, poverina. Non è una sigaretta. No, lo credo. Anche perché, data la sua struttura, casomai sarebbe un sigaro. Ma non lo è. Peccato. Sarebbe stato un vero piacere accenderlo. Nerone! Ma dove si saranno cacciati questi appunti? Ai, ai, ai. Che è successo, Eleuterio? Mi sono bucato con il tagliacarte. E tu continua a fumare. Ma che c'entra il fumo? Il fumo innervosisce. Tu sei nervoso, cerchi nervosamente e ti buchi con il tagliacarte. Guarda me, che non fumo. Mi sono forse bucato con il tagliacarte. No, anche perché non stai maneggiando un tagliacarte. Hai in mano una rivista. Che vuol dire? Tagliacarte o rivista, non fumo lo stesso. Comunque il fumo fa malissimo. Ti ricordi quella volta che mio padre a teatro si intossicò? Senti, io ti proibisco di fare discorsi cretini. Quella volta si trattò di un incendio e tutti si intossicarono, è chiaro? Sempre di fumo si tratta. Signora Damo, non avevi altro da fare che sentire impellente la necessità di una compagna. Poi io vorrei sapere perché proprio oggi ti è presa col fumo. Perché mia madre mi ha mandato l'articolo da leggere e io l'ho letto. E volevo dire, è stata tua madre. La quale tra l'altro fuma. Pochissimo fuma, povera donna. Pochissimo. E allora perché durante la nostra unica e indimenticabile gita a Napoli gli scugnizi dicevano «Oi, ove suo casa ottana?» E poi perché si impiccia dei fatti miei? Perché ti vuole bene, non vorrebbe che tu morissi di fumo. Me lo credo, le piacerebbe farmi morire di rabbia e per questo conta molto su di te. Eleuterio, ti prego. E io per dispetto fumo. Dove sono le sigarette? Le avevo nel cassetto, dove sono? Le avevo nascoste io per il tuo bene. Ma a questo punto tanto vale che mi disinteressi di te. Sulla libreria, in quel vaso. Ma tu guarda dove va a mettere le sigarette. Ecco, ci sono. Questo maledetto vaso, proprio su un piede mi doveva cadere. E di bronzo anche. Te l'ho detto che il fumo fa malissimo. Ah no, eh? No, non mi prendere in giro. Eleuterio, fermati. Metti giù il tagliacarte, Eleuterio. No, no, tu non puoi esagerare, ora basta. Ferma lì, con le spalle al muro. No. E sotto questo quadro che rappresenta la pace, io adesso mi vendico. Basta, non ne posso più. Fermo, calmati. Guarda il fumo come ti ha ridotto, fermo. No, vendetta. Fermo. Ehi, la testa. E adesso che mi hai a rompere la pace, torno da mia madre. Ricordo perfettamente, ma quando rientrerai non dirò niente. Ciao. Ciao, Eleuterio. Ti ricordi Giuseppoli? Sì, beh. È morto, intossicazione da fumo.